Quarta ed ultima parte di Rock Legends, continuiamo ad ascoltare i brani del disco dei Muzzle dal titolo Reborn. Come si chiamava questa canzone? Shiny Doors. Quali saranno ora le prossime mosse della band per il futuro? Beh, momentaneamente stiamo componendo pezzi nuovi. Sarà tutta una novità, tutto diverso. Abbiamo deciso proprio di cambiare. Sempre Stoner, spero. Non so, no, volevamo prendere tutto. Ci sarà sempre la nostra pasta sotto. Ah, ecco. Il nostro groove ci sarà sempre, però sperimentiamo. Siamo andati tipo a trovare anche le radici, il country, varie cose. Molto vintage. Sì. Sì, abbastanza. Come. Siamo al quinto brano, cosa scegliete di far ascoltare? LSD. Tempo come sempre scorre e noi siamo quasi in chiusura di puntata. Vi ricordo i contatti per le segnalazioni, scrivete l'indirizzo email jeanluc76m@yahoo.it. Ricordo www.radiorcs.it per info su Radio RCS, Rock Legends e streaming per ascoltare la nostra radio attraverso i media player. Grazie Mazzold per la partecipazione, buona fortuna per il vostro album e a questo punto la parola per i contatti web ed email per info sul vostro disco e un calendario di live già definiti. Allora, noi abbiamo un sito, un MySpace, che è www.myspace.com/muzzledrock, lo spelling è M-U-Z-Z-L-E-D rock. Dopo abbiamo una nostra mail che è muzzled@hotmail.it E le nostre, i nostri live, se volete tenervi aggiornati, li trovate appunto nel MySpace. E i prossimi live sono il 21 al Greenwich Pub di Curtarolo, il 22 a Quero, provincia di Padova. Provincia di Padova, sì. Il 22 a Quero, provincia di Belluno. E abbiamo diverse date a maggio, però più distanti, tipo a Baselga di Pinè, su un, su un'ex discoteca con gli OJM. Suoniamo anche a Cesena. Comunque abbiamo diverse date. Adesso, se volete, ci raggiungete dove. Brano per chiudere in bellezza questa serata. Il brano per chiudere in bellezza è Nice Times. Jean-Luc e Imazl vi salutano. Noi ci risentiamo la prossima settimana, quando avremo ospiti le Roy Pnon Witch, che ci presenteranno il loro primo disco intitolato Once Upon a Time. Ciao!